con Bruno Bigoni, regista del documentario Fino a quando l'ultimo, Sulcis, storia di una resistenza operaia, pubblicato online dal sito internet di Repubblica, del quotidiano La Repubblica, che l'ha anche prodotto. Bruno, ben trovato. Buongiorno a voi, grazie. Ci racconti di questo lavoro? Allora, questo lavoro nasce in realtà da un interesse particolare che il quotidiano Repubblica ha avuto nei confronti di questa vicenda dell'ex Alcoa, nella persona di Marco Patucchi, che è il giornalista che ha seguito in questi ultimi anni, perché questa vertenza è lunga da 5-6 anni, va avanti. Che ha appunto seguito tutta questa storia e quindi in qualche modo ci siamo incontrati, abbiamo un po' parlato di questa cosa, abbiamo pensato che valeva la pena cercare di raccontarla e di farla conoscere al di là della carta stampata. E quindi abbiamo trovato tutte le condizioni favorevoli per poterlo mettere in piedi e quindi abbiamo girato questa cosa, che in qualche modo racconta la vicenda ex Alcoa che sta per andare in porto in senso favorevole. Era anche questo un altro aspetto importante, una delle poche vertenze che sta andando in porto in modo giusto. E quindi siamo partiti cercando di raccontare la vicenda da un punto di vista soprattutto storico, anche se poi all'interno di questo lungo viaggio abbiamo anche raccontato la storia di queste persone che da 6 anni si battono continuamente in tutti i modi, anche in modi molto particolari, per poter difendere il loro posto di lavoro. Dico questo perché si sono inventati proprio delle situazioni, hanno fatto finta di rapire il direttore dello stabilimento. L'hanno messo sul blog, quindi poi è venuto fuori un pieno, quando in realtà era tutto falso. Hanno occupato il porto di Genova, fermando una nave che stava arrivando buttandosi dentro l'acqua. Hanno invaso l'aeroporto di Cagliari-Elmas, scendendo sulla pista, bloccando voli. Insomma, è stata una lotta molto dura, molto molto dura. Quanti operai interessa questa vicenda e da quanto tempo? Gli operai che sono coinvolti in questa cosa sono più o meno 400, più però devi tener conto poi c'è tutto l'indotto e quindi siamo anche qualcosa di più. La vicenda Alcoa nasce nel 96, quando questa multinazionale americana acquista questo stabilimento. Teniamo conto anche di una cosa, che l'Alcoa produce alluminio primario. L'alluminio primario è un elemento che troviamo ovunque, cioè dalle macchine alle pentole, al Domopak, cioè è presente dappertutto. E è l'unica fabbrica di alluminio che esiste in Italia, che copriva il 14% del fabbisogno nazionale. Quindi ti puoi immaginare il 14%, perso anche questo, noi l'alluminio oggi lo importiamo tutto, quindi è una fabbrica strategica per l'economia. Detto questo, l'Alcoa comincia a produrre, va tutto bene fino a quando c'è un problema di costi energetici, perché per produrre alluminio ci vuole tanta energia. Il risultato è che i vari governi che si susseguono, fanno pasticci di tutti i tipi, abbassano il costo dell'energia all'Alcoa, e questa cosa non passa per la comunità europea, che multa l'Alcoa di 300 milioni di euro. A questo punto l'Alcoa chiude perché non può sostenere quella spesa. Da lì in poi, e siamo nel 2012, da lì in poi parte questa lotta che ha vari steps, appunto di quelli che ti ho Sì. raccontato, momenti positivi, momenti negativi, fino a quando un anno e mezzo fa, per il lavoro, vi dico questo perché veramente tutti mi hanno detto che se la vicenda Alcoa è andata in porto è per merito di Calenda, del ministro Calenda, che ha preso in mano questa cosa, ha trovato questa Sider & Lois, che è una società svizzera che ha acquisito lo stabilimento e che prevede un revamping, che è la rimessa in moto di questa fabbrica, anche perché non è una cosa semplice far partire di nuovo la fabbrica, che è ferma da 5 anni oltretutto, e che quindi si prevede che entro l'anno prossimo dovrebbe ripartire. C'è sempre il problema dei costi energetici, ma su lì adesso bisognerà vedere cosa farà questo governo. Bruno, come hai deciso di strutturare il documentario? Ma guarda, io voglio dire, il corpo di questo film sono le parole degli operai, non c'è nessun'altra voce che quella loro. Quindi io sono molto andato sulle loro voci, sulle loro storie, storie di persone che hanno combattuto, che combattono, oltre altri che hanno mollato. Alcuni sono già rientrati in fabbrica, la maggior parte sta ancora aspettando. E poi ho cercato di in qualche modo fissare, attraverso delle immagini di questa fabbrica ormai ferma, vuota, di fissare un po' come questa immobilità che c'è, che è una cosa che si vede non solo in questa storia, ma che si vede un po' in tutta l'economia di questo paese, in questo periodo. Cercare di raccontarla attraverso immagini che trasmettessero che sì, c'è una forza molto forte e molto determinata che vuole andare avanti, per cui si può e si deve andare avanti, e dall'altra queste immagini che narrano invece come un'immobilità, come una fissità, come una quasi impossibilità o non volontà di muovere le cose. Tutti i riferimenti sono su Repubblica.it, giusto? Tutti i riferimenti, dunque il video, come vi ho detto, questo documentario dura 32 minuti, tutti i riferimenti, compresi anche i dati storici molto più precisi di quelli che ti ho dato io adesso, perché a fine fin c'è proprio una sorta di scaletta anno per anno di cosa è successo, qual è la situazione. Ieri è anche uscito un ulteriore pezzo che spiega un po' gli ultimi aggiornamenti dal punto di vista appunto di questi rapporti con Sider & Lois, ma diciamo che c'è un moderato ottimismo rispetto a questa storia. Bene. E allora ricordiamo il documentario Fino a quando l'ultimo, Sulcis e ex Alcoa, storia di una resistenza operaia di Bruno Bigoni, online sul sito internet del quotidiano La Repubblica. Bruno, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie Federico, a te un abbraccio, grazie, ciao.